avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait le vin de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un femme bail, ça fait déjà un femme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Esiste la macchina disvelatrice del talento, perlomeno del talento canoro, del talento musicale. Beh, è chiaro che esiste la televisione. La televisione, da quando fa parte indissolubilmente del nostro immaginario, è stata la grande scopritrice di quelli che poi sono stati gli elementi fondamentali del nostro intrattenimento, del sottofondo sonoro della nostra giornata, del solluchero auditivo del nostro quotidiano. Attraverso alcune piccole scatole magiche, attraverso alcuni meccanismi segreti, alcune porte presidiate che dal mondo dell'inesistenza, del pallido non essere, si arriva ad essere dei personaggi che hanno segnato più o meno indelebilmente il libro d'oro della canzone italiana. Ce n'è una che vale per tutti, che è la capostipite, il numero zero, è la grande madre di tutte le fattrici di cantanti e di talenti musicali e sonori, che è il terrificante Zecchino d'Oro. La giuria ha già preso posto, il provveditore agli studi di Bologna ha segnalato alcuni bambini che dovranno giudicare le canzoni, daranno un voto che andrà dal 6 al 10. Quest'oggi voi dovete ascoltare 6 canzoni. 3 di queste canzoni andranno in finale e la finale si svolgerà domenica prossima. Senti, vieni qua, coraggio, su. Canta la tua canzone. A proposito, qual è il titolo della canzone? Fammi crescere i denti davanti. Natale ancora lontano, o mio bambino fu, ma già ti chiedo un dono. Oltre a incentivare la montata lattea alle proprie ginocchia, in realtà lo Zecchino d'Oro ha lasciato qualche piccola traccia nel nostro immaginario fanciullesco, sempre più labile a mano che le generazioni si evolvevano e a mano che la televisione forniva altre maniere per dare possibilità di esprimere il proprio talento. Il principio dello Zecchino d'Oro era di prenderli in fasce, di cominciare sin dalla tenera età a trasformare quello che era il passatempo e l'alimento principale dell'orgoglio genitoriale in qualcosa che assomigliasse a una possibilità di carriera. Dallo Zecchino d'Oro non è che siano usciti un'infinità di cantanti, poi vedremo nella fattispecie quali sono le percentuali, ma in realtà ha dato l'idea che la canzoncina della recita scolastica, la poesiola cantata con le nonne che battono le mani e i nonni in carriola, in realtà poteva anche diventare qualcosa che la televisione usava in qualche maniera per riempire i propri palinsesti. Poi, facendo un salto di anni e un salto generazionale piuttosto notevole, quello che è una forma di associazione di musica e parole, di totale mancanza di talento con qualcosa che potesse assomigliare a un prodotto fruibile, vendibile in televisione, che appunto è la modalità che agli albori della sua carriera televisiva Fiorello portò nelle piazze d'Italia, era il karaoke. Il karaoke altro non è che una realtà sottotitolata, abituava comunque a una attitudine che poi è diventata facente parte stessa del pensiero, dell'opinione, dell'editorialismo del nostro paese, che la realtà debba essere sottotitolata. Qualcuno deve scrivere dei sottotitoli perché possa essere letta la realtà. In questo estremo bisogno di codifica di ogni complessità, Fiorello andava nelle piazze d'Italia, raccattava scemi del villaggio, casalinghe intraprendenti, barbieri dissidenti, li portava sul palco e li faceva cantare canzoncine che loro cantavano in momenti di euforia, di ubriachezza o di crapula familiare, facendo di questo un grande spettacolino di piazza. Come ti chiami? Carmine. Carmine arriva da dove? Da Monfalcone. Che lavoro fai? Che professione svolgi? Io lavoro in un supermercato. Senti, la canzone è molto bella, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Di Raff, è una canzone molto bella. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. E allora io dico, ma tu che ci stai a fare in un supermercato? Claudio Cecchetto, pialo, che è buono questo. Naturalmente dal karaoke di Fiorello non uscivano grandi artisti, ma avevano molte volte, entrando nelle maglie strette delle selezioni, dei casting fatti lì per lì in piazza o nel retrobottega della Proloco, del paese che ospitava, alcuni piccoli e velleitari cantanti di paese, piccoli talenti locali, aspiranti intrattenitori di feste, di nozze, di battesimi, cresime, funerali, che avevano una piccola occasione di gloria. Passano direttamente dal veglione tutto compreso, lenticchie, cotechino per 15 euro a avere un piccolo barlume di visibilità in televisione. Questo a cosa serviva? Serviva che da lì alle generazioni future, nel cartellone policromo sponsorizzato dalla pizzeria locale, potessero scrivere sotto: e stai quello che è stato ospite del karaoke di Fiorello. E non è cosa da poco. Poi questa forma di bieco dilettantismo che veniva portato in televisione, come si portano le scimmie ammaestrate, come ahimè lo scemo del villaggio molte volte diventa l'oggetto di intrattenimento di tutti i paesani, come l'albatro azzoppato sul ponte della nave perché impossibilitato a solcare i cieli diventa qualcosa di goffo, di sghembo, di oggetto di derisione per i biechi marinai. Questi talenti inespressi, incompresi, questi piccoli prodotti di cialtronissime scuole paesane di canto e dizione hanno avuto un grandissimo luogo di investimento pubblico. Tutto ciò che era stato fatto in maniera dilettantesca e con l'intento profondo di ridere, di prendere in giro, si è drammaticamente, drasticamente preso sul serio in quella che è la grande scuola di arte di Maria De Filippi. Amici ha trasformato tutto questo, senza che migliorasse in realtà la qualità oggettiva, una grande macchina di cui bisogna avere grande rispetto, perché poi ha fornito addirittura vincitori del Festival di Sanremo, andando a prendere tutti questi ragazzi, quelli che potevano passare una volta dagli Zecchini d'Oro, dalle selezioni paesane, dalle scuole di canto, di ballo, di danza e via dicendo, portandoli una grande pubblica scuola per artisti, di cui si vedeva soprattutto il backstage, la parte drammatica, i pianti, i singhiozzi, le frustrazioni, mettendo a loro confronto una serie di professori cattivissimi, quasi dei gestori di lager, che più li maltrattavano, più li schiaffeggiavano, più li impalavano, più questi ragazzi diventavano piccoli eroi, ha trasformato tutto questo nella grande fucina di talenti che è stato appunto Amici. La nona edizione di Amici, ossia Amici 2010, viene vinto da... Non è tanto importante l'oggettiva valutazione di un talento, è l'alone emotivo in cui si sprigiona, in cui fuoriesce, in cui erutta questa possibilità di glorificazione, di essere insigniti della palma di vincitore, di essere dei primi. Beh, io ho fatto una cialtronissima, personalissima e opinabile lettura della grande macchina scopritrice dei talenti che è la televisione. Perché? Perché questa mattina vorrei che voi telefonaste all'800 24 0024 ed esprimeste o la vostra possibilità di essere talenti incompresi o il vostro punto di vista su quella che è l'effettiva qualità del talento scoperto dalla televisione. Perché dico questo? Dico questo perché questa mattina abbiamo possibilità di parlare, lo avremo per tutta la trasmissione, con una persona che in realtà di mestiere fa il caronte traghettatore di persone dal luogo della totale inesistenza al luogo della grande evidenza, uno scopritore di talenti. E questi è Roberto Manfredi. Manfredi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ti ho fatto ascoltare le mie cialtronate perché poi tu possa portare dei punti di saggezza. Dunque, Roberto Manfredi, autore di Talent Shop, dai talent scout ai talent show, che è un passaggio importante, lui ci spiegherà, libro uscito recentemente per Arcana. Allora, Roberto Manfredi, vediamo se possiamo definire in maniera più precisa, più dettagliata, quali sono le tappe della grande macchina scopritrice di talenti. Ma innanzitutto complimenti per la tua introduzione, che direi non è assolutamente cialtrona, ma assolutamente veritiera. C'è una grande differenza tra la scuola del talento della televisione degli anni 60 a quella di oggi. Innanzitutto si cercava, la televisione allora si limitava a diffondere il talento che già esisteva. Non si arrogava il diritto di giudicare, non si arrogava il diritto di decidere chi doveva vincere o meno, e così sul palco arrivavano artisti, negli studi televisivi arrivavano artisti che si esibivano nei piccoli locali, nelle situazioni. Ecco, ma che a loro volta come erano emersi? Quali erano i piccoli meccanismi locali e extra televisivi di definizione e certificazione del talento? I cantagiro, adesso non mi ricordo bene. C'erano i talent scout, c'erano personaggi innamorati di questo mestiere che andavano per la strada a cercare gli artisti. Nanni Ricordi, ad esempio, io ho iniziato a lavorare con lui nella seconda metà degli anni 70, era uno che aveva convinto per esempio Gino Paoli a cantare, perché Gino Paoli faceva il pittore, non gliene fregava niente di cantare, così come altri. A Roma per esempio c'era Gianni Boncompagni, che lanciò Patti Pravo semplicemente vedendola ballare al Piper Club, perché aveva intuito che quella ragazza aveva delle grandi potenzialità artistiche. Poi, quindi c'erano acuti cacciatori di teste, anzi di ugole, che andavano... cacciatori di teste, esatto, solo che anziché oggi che i cacciatori di teste eliminano, allora invece promuovevano. Quindi era un mestiere dove è molto specifico, bisogna essere ovviamente dotati per poterlo fare, ma i talent scout venivano sorpresi dal talento altrui. Ecco, non c'era un codice televisivo imposto. Paolo Villaggio arrivò a presentare un programma in Rai famosissimo, dove magari trattava anche male le vecchiette in studio. Quando faceva il prestigiatore tedesco? Faceva il prestigiatore, il famoso Kranz, che poi Ettore Bernabei, che era uno dei funzionari democristiani della Rai di allora, voleva cancellare, si permise di telefonare anche al suo autore, che era Umberto Simonetta, dicendogli togliamo questo personaggio perché tratta male il pubblico. Umberto Simonetta gli disse no, assolutamente no, posso permettermelo perché io sono più ricco di lei. Quindi insomma, gli autori una volta avevano anche un certo potere contrattuale, diciamo. Ecco, ma diciamo che tutto il meccanismo del potere televisivo era più incentrato, diciamo così, su meccanismi censori, al massimo, diciamo. Però l'artista veniva in qualche modo tutelato, perché nasceva artista, non lo diventava in televisione, ma ci arrivava. Quindi questo era... Ma esatto, dire che a un certo punto poi la televisione è abbastanza recente, il fenomeno è diventata la fabbrica, la costruzione del talento. Io, Amici di Maria De Filippi, che è un programma televisivo vincente, indubbiamente, però rappresenta la fabbrica del talento, come se entrassero lì dei bozzoli di artista e lentamente, con lo staffile e con la doccia gelata, esce poi il trionfatore di Sanremo. Sì, c'è da dire però questo, che io non sono contrario al talent show per definizione, perché si presuppone che in un talent il talento debba crescere, insomma, uno deve comunque saper fare qualcosa, a differenza dei reality dove invece uno ci arriva perché magari è un po' strambo o perché magari è molto, molto formosa. Ecco, ma il problema è la scuola, come dici tu, cioè il problema è che dagli anni 90, dal karaoke in poi, che ha sdoganato la possibilità a tutti di cantare, si è uccisa un po' la cultura cantautorale. Una volta i talent scout di allora cercavano artisti che avevano un loro repertorio, che scrivevano e che potessero formare un catalogo. Cioè Lucio Dalla ci ha messo 10 anni prima di uscire fuori come artista. Oggi si scelta, si prende questi ragazzi e al massimo li si fa diventare bravi esecutori, cioè la scuola di oggi non insegna a scrivere, non insegna a creare, ma insegna a riprodurre proprio sul modello. È la fabbrica del delle cover, cioè è la fabbrica della covermania, sì, che ha distrutto, praticamente distrugge abbastanza la creatività, ma questo nel mio libro lo dicono persino i discografici della Sony, che dicono: ma insomma, purtroppo noi in questi programmi penalizziamo i gruppi, ad esempio, perché non... Una volta sarebbero stati chiamati imitatori, ecco una grande imitazione, esatto, di un cantante. Bravissimo. Esatto, questo è... Cioè lo Schese faceva quello che oggi fa un eroe Schese, di Amici. Esatto, invece oggi il massimo che possono fare questi ragazzi è riuscire a cantare bene o benino, quindi a vincere quei famosi festival di Sanremo, come è successo a Scanu, come ad altri, per poi però sparire dopo pochi mesi, perché poi, attenzione, di fronte a, in questi programmi dove c'è dove si accende un audience incredibile, X-Factor o Amici, poi questi ragazzi spenti i riflettori si trovano immediatamente da soli. Il momento più brutto di questi ragazzi è quando finisce il programma, magari hanno vinto, però a questo punto o hanno uno staff incredibile che li aiuta, quindi autori, produttori, o altrimenti si trovano a rendere conto di questa popolarità, di questo successo improvviso. E poi magari devono andare in tour e hanno 10 cover perché non hanno pezzi. Ecco, però vedi qual è la differenza fondamentale. E quindi svaniscono. La differenza fondamentale, secondo me, e sono totalmente digiuno di questa materia, sono un semplice osservatore, è che due sere fa nel programma di Signorini c'era ancora Patti Pravo, cioè lo zombie che rimane di Patti Pravo, però ancora rappresentare qualcuno, una persona che è stata qualcosa di formidabile nella storia degli ultimi 30 anni, la storia musicale del nostro paese. In realtà invece queste moderne fabbriche di zombie canori creano dei personaggi che hanno una sorta di vita autonoma finché ce la fanno, finché i riflettori sono accesi, e poi in realtà rimangono ad agitarsi nelle nebbie, nelle tenebre della loro inconsistenza. Forse la differenza è proprio nella fabbrica iniziale del talento. Sì, è vero questo, è anche vero che oggi, come racconta Mara Maionchi, che ho conosciuto 35 anni fa, in ricordi, quando appunto faceva la Talent Scout e poi camaleonticamente riappare dopo 40 anni come Talent Scout nei talent show televisivi, afferma nel mio libro che oggi il mondo ha troppa fretta, cioè nessuno investe, nessuno ha più pazienza di investire su un artista per 10 anni. Lo dice anche in modo colorito, con il suo linguaggio televisivo, cioè oggi il mondo ti fa fuori in un attimo se tu non ti adegui al mercato. Il problema è che il mercato non esiste più, questo è il problema di fondo. Patti Pravo resiste 30-40 anni, continua a fare audience, continua a essere un'icona ben precisa, un mito, e questi ragazzi invece spariscono, perché il vero mito è il talent, non sono i ragazzi che partecipano al talent. Sentiamo un attimo Gianluca. Gianluca, buongiorno. Buongiorno. Primo ascoltatore. Sì, benissimo. Perché sento un pochino basso l'ospite, posso dire questo. Beh, vabbè, parli, te l'ascoltiamo. Ok, io praticamente sono stato anticipato, lavoro nel campo musicale come arrangiatore, non starò qui a dire quali risultati ho avuto comunque delle pubblicazioni anche a livello internazionale su MTV, quindi sono un professionista e sono stato appena adesso anticipato perché è proprio questo che volevo dire. In un momento in cui il mercato discografico comunque in stagnazione per via dell'avvento di internet, della pirateria, la maggior parte delle case discografiche in Italia, diciamo che il problema è particolarmente sentito, e posso dire di aver parlato anche con direttori delle major che mi hanno detto la stessa cosa, che gli investimenti in questo momento sono considerati antieconomici, gli investimenti su band non conosciute. I talent show permettono per un anno di portare avanti un artista che si è autopromosso, che viene promosso dalla televisione. Questo dimezza, se non qualcosa in più, addirittura i costi necessari alla casa discografica o all'etichetta per poterlo piazzare attraverso le radio. Quindi è un meccanismo drogato, camuffato, in realtà non è un talent show, è un'iniezione di formaldeide nelle vene di un cadavere perché possa resistere un altro anno. Sì, guardi, le do due dati molto, molto semplici. In questo inverno sono stati annullati due tour e parecchi concerti singoli di artisti talent show di 2 anni fa. Non faccio nomi, no? No, quella, lo dica, Noemi, quella che aveva cantato anche con Fiorella Mannoia, aveva fatto un singolo, ha dovuto annullare due concerti a Roma perché aveva avuto soltanto 3 biglietti in prevendita, quindi sono stati annullati. E aveva vinto un talent show. Perché il problema qual è? Che il talent show fa durare l'artista, salvo casi rarissimi, fino all'inizio del talent show successivo. Però fino a quel momento l'artista non ha bisogno di altra promozione. Io posso dire di averlo visto perché direttori di grandi case discografiche, di fronte a prodotti che gli sono stati proposti, hanno detto sì, il prodotto è molto forte, però adesso non ci sono soldi e ci conviene assolutamente farci promuovere direttamente dalla televisione con artisti di Amici, X Factor, Italia Che Talento o cose di questo genere. Roberto Manfredi, aspetti un attimo Gianluca, che poi tanto la possiamo richiamare anche dopo la pausa, sì, visto che lei è della materia, ci aiuta e ci appoggia. Roberto Manfredi, solo velocemente una battuta, poi do la linea alle informazioni, sì, della borsa. Da quello che dice il nostro ascoltatore, mi sembra di capire a questo punto non c'è più l'idea di trovare un talento o di segnare una tappa fondamentale nella storia della canzone italiana, ma è un normale, lecitissimo business che ha la sua data di scadenza. Dobbiamo tirare alla lunga massimo un anno tra un talento e l'altro e poi chi se ne importa. Sì, è un po' così, anche perché oggi per i ragazzi purtroppo c'è la cultura di non diventare bravi, ma di diventare famosi. Io ho fatto i pre-casting quest'estate di X Factor e mi accorgevo che i ragazzi arrivavano lì spinti dalla televisione, non spinti da una passione per la musica o per l'arte, arrivavano lì portando dei pezzi così, come pezzi di ricambio, canzoni che magari avevano già sentito da altri, anche perché si sa, in grosso modo erano sempre le stesse e loro sanno meglio degli altri, Manfredi, che sì, poi anche il provino più cialtrone, anche l'esibizione più improbabile comunque diventa materia di riciclo televisivo, comunque da qualche parte si vedrà, c'era sempre un paperissima show, il dietro le quinte del talent show, che anche il cialtrone che non sa cantare va vestito da buffone, comunque avrà il suo quarto d'ora di gloria televisiva. Ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni della borsa. Connu quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0 continua la ricerca della nuova pop star della musica italiana. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Da dove vieni? Da Calma. Conte Fano, io. Fai un respiro. Allora. No, ma non è un problema. È anche l'emozione, fai un respiro. Sono Giuseppe Binetti, sono qui a X Factor per il lancio di un nuovo volto rock elegante italiano. Io mi sento una fantastica verità in questa stupida vetrina chiamata realtà. Quindi io sono una persona vera e umile e sincera e... Mamma, se hai detto niente, vera, umile e sincera, mortaci. Hai detto come se tu, cioè voglio dire, hai detto... Io sono proprio così, sono pane al pane e vino al vino, vero così. Bene. Sei autore anche. 800 24 00 24, che ne pensate voi del talento musicale, il talento sonoro, delle maniere per evidenziarlo, per diffonderlo, per mantenerlo e per crearci un accompagnamento piacevole che segna dei momenti fondamentali della nostra esistenza. Noi abbiamo la vita legata ad alcune canzoni, ad alcune musiche, e guarda caso le musiche e le canzoni che ricordiamo come boe attorno a cui si snodano momenti della nostra esistenza provengono da una macchina solida di creazione e individuazione del talento. Le altre, come stiamo cercando di capire, anche se riempiono le pagine dei giornali, fanno la gioia degli ascolti televisivi per una stagione, poi miseramente rimangono nelle nebbie, nel limbo degli zombie incompresi della canzone italiana. Parliamo questa mattina della macchina del talento musicale con Roberto Manfredi, che è autore di Talent Show, Talent Shop, dai Talent Scout ai Talent Show, cioè il mercato, la vendita del talento, edizioni Arcana. Roberto Manfredi, abbiamo sentito il dietro le quinte di un provino. Tu ne hai fatti molti di provini, vero? Anzi, sei stato fra i selezionatori di vari talent show. No, di talent show solo X Factor quest'estate, dove tra l'altro eravamo 9 auditori ed eravamo costretti a vederne 220 a testa al giorno. Ma si fa in tempo a farsi un'idea in questi tempi così stretti? Ma Diciamo di sì, perché purtroppo arrivavano anche tutta una serie di personaggi imbarazzanti, signore di una certa età, cantatore di strada, posteggiatori, eccetera. Questi vengono apposta, sanno di essere dei personaggi, sì, perché... sperando che c'è sempre un talent show di ritaglio che li può prendere. Sì, perché come dicevo prima, conta diventare famosi, ma non conta di essere bravi. E quindi arrivavano anche personaggi che secondo me non avevano nessuna chance per partecipare al programma, ma venivano considerati un po' così la famosa carne da macello, se posso esprimermi in modo abbastanza forte. Noi avevamo una tabella con dei codici. Questo è divertente, ci sono dei codici, esatto, che si applicano, e ce li puoi descrivere? Sì, allora, dunque, vado a memoria, comunque diciamo i più alti erano la T, cioè il talento, e il numero uno era la P, cioè la pop star. Poi c'erano dei sottocodici che stavano per M, cioè quelli medio, quelli che fanno gruppo ma che probabilmente verranno esclusi, F che stavano per freak, cioè i personaggi stonati, bizzarri, improbabili, insomma gente che faceva colore, diciamo più vicini alla corrida che non a un talent. Che però è sempre bene metterli in un database, perché poi arriva il cerca persone della corrida, sì, e te li prende comunque. Esatto, perché fanno poi colore nella fascia quotidiana, ovviamente nella fascia serale in prime time non sarebbero mai arrivati, però invece nella fascia quotidiana fanno abbastanza colore, diciamo, inducono al sorriso, c'è quel, poi danno la possibilità di quel piccolo cinismo ai tutor per considerare appunto la gente, insomma, quella che è un po' come quelle ragazze che si portano dietro sempre l'amica cozza, sembra più belle loro, la stessa cosa. Bellissimo, un esempio fantastico, esatto, cioè non è bella ma è simpatica, ecco, esattamente. Poi c'è ovviamente la N che stava per no, e poi c'era la S, cioè la S erano i personaggi che avevano una storia parallela da raccontare, possibilmente anche un caso umano. Un caso umano, bravo, per cui non so, la figlia che cantava con la mamma nei piani bar, o la figlia d'arte, orfanelli, insomma, famiglie, insomma, con grossi problemi, eccetera. Ecco, io quelli obiettivamente non li passavo ad altri perché non riuscivo, Poi capisci che è come la fabbrica del maiale in cui non si butta niente. Gli orfanelli vanno bene per il pomeriggio, i freaks vanno bene per la corrida, c'è una canalizzazione dei sottotalenti che la televisione non butta via nulla. No, non butta via niente perché tutto fa spettacolo, insomma, come recita una situazione nota. Ma il problema è che per l'appunto questi personaggi secondo me non dovevano neanche arrivarci, cioè allora il talent show dovrebbe, ecco, chi ce li porta? Come funziona la macchina? Come fanno questi a arrivare al casting? Funziona perché ormai è un tantam incredibile, poi c'è il sito, Rai del programma, poi ci sono collaboratori esterni che comunque agiscono, promoter locali, insomma, e quindi poi si sa, alla fine si viene a sapere in modo anche abbastanza bizzarro e strano. Per esempio a Roma arrivavano dei siciliani non sapendo che in Sicilia, a Palermo e a Catania c'erano le stesse audizioni, per cui si sciroppavano migliaia di centinaia di chilometri per arrivare lì stanchi, distrutti, senza più la voce. Ecco, quindi l'informazione era un po' casuale, diciamo, molto sul tam-tam. A Como ho conosciuto gente che arrivava dalla Puglia, non sapendo che invece nelle Marche, che era un po' più vicino, c'erano le audizioni anche lì, insomma. Ma te non ho mai visto personaggi più coloriti e divertenti di questi improbabili agenti che vengono dai paesi? Sono sempre vestiti da artisti, anche se hanno 60 anni, hanno i capelli lunghi sulle spalle, gessati, cravatte gialle, e si portano sempre dietro 3 o 4 strappone poverette che in cambio di intimidazioni sperano di diventare famose, e provano un pochino vanno in delle pensioncine terrificanti, mangiano i panini. Lo so, perché abitavo in un periodo in una casa a Prati, dove al piano terra facevano dei provini per programmi televisivi, quindi io tipo il sabato pomeriggio, a domenica mattina, vedevo nei giardinetti di Piazza Mazzini questi coi panini in mano che aspettavano il loro turno. Erano delle situazioni di emarginazione e di velleità, poverini, veramente patetiche. Sentiamo René, buongiorno. Buongiorno ai radioascoltatori. No, volevo dire la mia per quanto concerne questi provini, soprattutto sullo Zecchino d'Oro. Io sono a Milano, anni fa, quando mio figlio, adesso 31enne, si dilettava a cantare, aveva vinto 3 festival a fila, insomma, era un bambino abbastanza precoce. Ecco, lei stava investendo però su suo figlio, lei stava si è fatto 3 festival, l'avrà portato, l'avrà fatto studiare, ci sperava. No, poi ho avuto un invito per lo Zecchino d'Oro, ha fatto un provino a Milano e intanto ci hanno rifilato una enciclopedia, è un classico, no? Quello però guardi, lo so perché, ahimè, nella mia indigenza precoce ho fatto anche il venditore di enciclopedie. Quelle sono delle associazioni parallele che, fingendo di fare casting per lo Zecchino, poi prendono le mamme e gli rifila l'enciclopedia. È un escamotage. come tanti però altri. Roba anni 70, è roba vecchia, ancora dura. Sì, comunque mio figlio praticamente ha sostenuto il provino, dopodiché, dopo qualche giorno, ci è arrivata una lettera dove diceva che non era idoneo al canto. Ma lei, guardi, purtroppo è finita in una di quei vicoli ciechi. Lo scopo di chiamarla in quel cinema, fargli vedere un filmettino e a metà fra un tempo e l'altro vendere l'enciclopedia, era di vendere l'enciclopedia. Probabilmente nemmeno avevano nessun contatto con lo Zecchino d'Oro. Purtroppo è capitato male. Io penso le selezioni le facciano i frati dell'Antoniano, adesso non so come funzioni bene e non so se augurare più quelle o più l'enciclopedia. Comunque, le è andata male. Gianluca, l'ascoltatore di prima che ci aveva chiamato e che lavorava nel campo discografico, hai qualcosa da aggiungere dopo quello che abbiamo detto? Sì, beh, da aggiungere qualcosa, anche perché è la parte più importante. L'avete già detto, adesso non si pensa a diventare artisti ma a diventare famosi, non a diventare bravi. Nel mio lavoro è anche per questo che è diventato molto redditizio. Fino a qualche anno fa arrivavano band con dei brani da arrangiare, ma avevano qualcosa da dire, avevano dei brani e cercavano di tirar fuori la propria personalità. Oggi la maggior parte delle persone che si rivolge ad un arrangiatore lo fa per due motivi: uno, perché vuole assomigliare a questo o a quell'altro gruppo, quindi arrivano con delle proto canzoni che nulla hanno in realtà di brani, perché magari sono un 4 di chitarra con una melodia abbozzata e quindi poi noi dobbiamo fare tutto il resto, e non hanno assolutamente idea di che cosa farsene, però dicono, portano 20 brani di questi artistucoli un po' mainstream e dicono fammelo suonare in quella maniera, e poi sanno perfettamente, uno, che è possibile far suonare tutti gli arrangiatori, due, che con le moderne tecnologie è possibile intonare anche una persona che sta solo parlando. Questo da dire rispetto a soltanto 10-15 anni fa. Oggi la tecnologia e l'artefazione del campo del suono permette di fare miracoli. Io assolutamente posso dire, ho cominciato a lavorare nel campo del suono con l'analogico, ora con il digitale è possibile veramente far parlare una persona e, grazie a un programma che si chiama Melodin, far sembrare che abbia cantato. Sfonda porta aperta. Io, in epoche scellerate, nemmeno troppo lontane, un anno e mezzo fa, con i fratelli Alemanno, lui fa il direttore dell'ACI e lei si occupa di alimentazione, abbiamo fatto addirittura un CD di canzoni fatto nella cucina di casa mia, scritte, cantate, arrangiate, tutto in cucina con un computer. E comunque è venuto fuori un disco. E io sono la persona più negata in assoluto con ogni approccio musicale. Questo dimostra che in realtà ha ragione lei. Massimiliano. Sì, buongiorno a tutti e grazie per la possibilità di parlare. Senta, io sono un po' contro questo genere di spettacolo, nel senso che io come lavoro faccio musica. E mi però guardi, una cosa sola, poi la faccio parlare. Se lo spettacolo si alimenta e si finanzia e dà delle rendite a chi lo organizza, alla fine è una forma di spettacolo. Lei fa un'altra cosa, ecco, questo potremmo dire. Sì, io non sono contro il lavoro che una persona svolge in questa maniera, sono contro il messaggio che viene dato, secondo me, alle nuove generazioni, perché io ho 33 anni e da metà vita porto avanti questa battaglia, che ormai è diventata una battaglia, per la musica in generale come arte, come forma anche di sostentamento. Posso dire che generazioni, poi noi abbiamo a che fare quando giriamo per l'Italia, quando facciamo i nostri concerti, sta venendo fuori purtroppo il messaggio preoccupante che è importante esserci comunque ed è importante essere lì, e questo secondo me crea una forma di aridità a livello di interesse nella musica in quanto forma di espressione, che che sta venendo fuori in questi anni in maniera preoccupante. Guardi Massimiliano, Massimiliano, non che voglia confortarlo, la stessa cosa avviene nel campo della narrativa, nel campo dell'espressione poetica, nel campo della letteratura, nel campo dell'arte, nel campo del giornalismo. Oggi la reale, profonda e sudata qualità in un'espressione umana, che può essere artistica, ma può essere anche di talento, è molto difficile. Oggi esserci, io lo so perché mi capita ogni tanto, non per masochismo, perché mi piace vedere da vicino, partecipare a dibattiti televisivi. Mi rendo conto, una volta dentro, si omologa tutto, siamo tutti uguali, diventiamo tutti parte di un grande spettacolo, non conta quello che uno ha studiato, quello che uno ha fatto, quello che è, quello che rappresenta. Conta chi è più capace di sapersi muovere all'interno di quel tipo di meccanica, di quel tipo di codice, che è quello della televisione. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Chi vuoi sfidare? Vorrei sfidare Fiorellino. Molto coraggiosa. Ah, lo posso dire? Sì, lo sono. Mi sono sentito umiliato da certe parole bruttissime, volgarissime. Deficiente, non eri sudato, ma che c***o dici se non lo sai? Io e invece io sì, testa di c***o. Oh, ciao, 4 de quoziente intellettivo, il minimo per camminare. Faccio le mie valigie e me ne vado. Vado a casa oggi. Qua non è esattamente un talent show, ma è... Music Farm, a cui ha partecipato la Bertè, è un programma televisivo resumativo di antichi talenti messi a contatto con talenti un pochino più recenti. Insomma, siamo sempre nel campo delle tecniche di conservazione dei cadaveri. Abbiamo al telefono Roberto Manfredi, autore di Talent Shop, che dai Talent Scout ai Talent Show, un libro che racconta l'iter della grande macchina di fabbricazione del talento in televisione, edizioni Arcana. Roberto Manfredi, su questa ultima accezione, l'importanza del backstage, il talent show in realtà è una macchina complessa, non c'è soltanto il momento dell'esibizione, della selezione del cantante, dell'artista, ma c'è la fase preliminare della selezione, che già in sé fa spettacolo, e diciamo i momenti di preparazione, il backstage, cosa accade dietro le quinte, i contrasti, le situazioni umorali, che contribuiscono a creare spettacolo, ma rendono ancora più povera poi la qualità del prodotto artistico finale, sei d'accordo? Sì, assolutamente sì, perché ripeto, è sempre il solito discorso del codice televisivo. Io credo che se un talent fosse concepito come scuola di musica, cioè si danno strumenti formativi a questi ragazzi per crescere. Beh, quello che fa Maria De Filippi. Almeno nell'apparenza. Beh, questo. Amici è sicuramente già un po' più vicino a questo, anche se a mio avviso viene un po' estremizzato il rapporto allievo, diciamo così, tutto. Perché deve fare ascolto. Perché deve fare ascolto, quindi comunque c'è una cosa. Però io voglio dire, i talent show sono stati applicati a qualsiasi televisivamente a qualsiasi genere. Ci sono dei talent show di cucina, per esempio come Hell's Kitchen, che sono fantastici, sono tutti di derivazione americana. C'è quella col cuoco nazista terrificante. Esatto, Hell's Kitchen. Però perlomeno lì quel piatto bisogna saperlo fare, cioè voglio dire, non si può fare la cover di un piatto, bisogna essere capaci. Ci sono strumenti tecnici ben precisi, insomma, quindi nella musica, ahimè, basterebbe per esempio eliminare le cover, sarebbe fantastico, oppure reinterpretare in qualche modo una canzone, ma non eseguirla to court, perché poi ci sono i cloni di Giorgia che cantano come Giorgia, ci sono i cloni di Lady Gaga che a sua volta è già un clone di Madonna, per cui insomma non finisce più. Beh, mi sono sentito dire da un'amica per Capodanno, dico: dove vai a passare il Capodanno? Vado in un locale, ma c'è stato un locale dalle parti di Frascati, dico: ma che spettacolo c'è? C'è il cantante che fa l'imitazione di Renato Zero, cioè girano per Roma dei cloni di Renato Zero che fanno le serate, e la gente ci va con la stessa idea di andare a vedere Renato Zero, non vede nemmeno la differenza alla fine. Il clone di Renato Zero è diventato come Renato Zero, costa un po' meno andarlo a vedere, ecco, solo quello. Costa meno, e quindi... Io credo che sia così. Morgan, per tornare per esempio a X Factor, credo che abbia dimostrato, non a caso ha vinto 3 edizioni, i suoi diciamo allievi hanno vinto 3 volte, e ha dimostrato che si può fare un lavoro di riscoperta di una canzone, reinterpretandola. Per esempio ricordo che in una edizione di X Factor fece fare tutto Battiato in 4 minuti, cioè prese pezzettini di canzoni di Battiato e li fece diventare una sola. Quindi insomma c'è anche un modo di reinterpretare una canzone in modo originale, dando del proprio, diciamo, dando la propria creatività. Questo si può fare. E quindi io credo che il talent show non debba essere penalizzato. Se un talent show ha la funzione di far crescere i ragazzi artisticamente, allora ben venga. Se invece ha la funzione di produrre dei cloni che spariscono come pezzi di ricambio nell'arco di pochi mesi, allora la cosa è assolutamente preoccupante. Volevo solo citare un episodio, partendo dallo Zecchino d'Oro. Nel mio libro Ivan Cattaneo, per esempio, che ha partecipato a 12 anni alle prime audizioni dello Zecchino d'Oro, e facendo cover. In realtà lui poi ha cominciato come cantautore, ha scritto più di 400 pezzi, ma ha avuto successo paradossalmente negli anni 80 come reinterprete di cover, e non ha più scritto i pezzi, cioè quella è stata la sua maledizione, quello che lui dice: io ho avuto successo facendo i pezzi di altri e ho ucciso la mia creatività. Sai, alla fine però, se uno deve mettere la gallina dentro la pentola, sceglie quello che il pubblico apprezza di più. Non mi sento nemmeno di fare la morale sulla ortodossia artistica. Se con quello riesce a sopravvivere bene, anzi è diventato un personaggio, diventa un lavoro. Però ha una ferita aperta come artista che è insanabile. Mi sono ricordato adesso come un flash una serata che passavo per una piazza di Ovindoli, o da quelle parti c'era Freddie Mercury che cantava, che era un coatto locale, poi in mezzo al fumo con la canottiera, con i baffetti e tutto intorno invisibilio, era Freddie Mercury, ma è successo 2 anni fa, quando era ormai già bello che mangiato dai vermi. Flora, buongiorno. Buongiorno, sono Flora da Verona. Senta, volevo dare la mia testimonianza, dottor Nicoletti. Allora, mia figlia, che per inciso ha studiato 8 anni canto con Iskra Menarini, ha partecipato qualche anno fa a X Factor. Dopo aver fatto una coda lunghissima di ore e ore e ore, ha aperto la bocca 2 note, grazie e buongiorno. E da quel momento in poi non ha più partecipato a un concorso, perché non ha più aperto la bocca. Sono tutti truccati. Sono tutti truccati, sanno già chi mettere. Sì, signora, guardi. No, non voglio mica difendere, può anche essere. Però se il fatto che sua figlia ha aperto la bocca e nessuno ne è rimasto estasiato, non è un motivo sufficiente per provare sono tutti truccati. No, dare la soddisfazione di farle cantare un pezzettino dopo aver fatto una coda lunghissima alle 9 di sera, cioè vabbè, sono state anche loro stanchi, però dai, ha aperto la bocca? No, per inciso ha cantato anche con Gianni Morandi. Cioè, sì, ma ha aperto la bocca, non ha detto nulla, non ha fatto in tempo. Cioè, voglio dire, no, mi faccia capire. Freni un attimo il suo orgoglio ferito di madre. Ha aperto la bocca, non ha fatto nemmeno in tempo a parlare? Gli hanno subito richiusa. Cioè, lei ha aperto la bocca, ha fatto una grazie e buonasera. Cioè, ha detto mamma... Sì, ma fra l'apertura della bocca e il grazie, cosa è avvenuto? Bocca, grazie, ha detto, sono stato stanchi di sentire, siccome ero una delle ultime, però almeno... Non posso credere che uno apre la bocca e dicono grazie, buonasera. Grazie, buonasera. Ma nemmeno ha fatto una nota, nulla. Due note ha detto, ha fatto, 2 note. Basta, via, grazie, buonasera. Allora ha detto, almeno potevano darmi la soddisfazione di farmi cantare, poi che piacesse o non piacesse, almeno fatemi cantare e ditemi fai schifo, ma non senza averla sentita. Roberto Manfredi, solo una battuta che siamo in sigla. È sufficiente un'apertura di bocca per eliminare una cantante? No, questo lo escludo, dipende dalla sensibilità dell'auditore, però insomma i ragazzi devono portare 4 pezzi, ne eseguono 2, uno in italiano e uno in inglese. Quindi molte volte può durare da un minimo di un minuto a un massimo di 5. Lo so, però sa che la mamma, il cuore di mamma ferito, lo escludo, il cuore di mamma ferito riesce a dare l'insensibilità dell'auditore all'apertura della bocca della figlia, probabilmente degli spalancamenti di meraviglia che nessuno ha capito e nessuno ha compreso, e noi li siamo vicini. Grazie Roberto Manfredi, ci sentiamo domani. Alors tous deux on est parti dans tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.